Questo parere, a dirle il vero, è la seconda volta che rischia di morire. La prima volta per un ictus che è stato portato dai parenti dal medico tradizionale, dallo stregone. E ovviamente per un ictus non poteva fare niente. Adesso è un'aria strozzata e anche in questo caso è intervenuto lo stregone locale, quindi vuol dire morte certa. Niente, l'ho portato all'ospedale, l'ho portato in una clinica privata, perché gli ospedali sono quelli che sono. E ovviamente la clinica era pronta, non avevano 100.000 franchi per operarlo. Se io non portavo questi 100.000 franchi non l'avrebbero operato. E lui moriva. Strade in diretta. Si viaggia con difficoltà sull'autosole tra Frosinone e Anagni nelle due direzioni per un grave incidente. Verso Roma è stata anche chiusa l'entrata di Ferentino. Lungo la stessa autostrada trafficata l'area di Firenze nei due sensi di marcia, anche per alcuni tamponamenti adesso risolti. Ancora un incidente sulla 9 Lainate Como Chiasso, auto in fila fra Lomazzo e la 8 in direzione Lainate. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Brescia e Desenzano in direzione di Padova, sono le conseguenze di un incidente ora risolto. Infine trafficata la 3 Salerno-Reggio Calabria e coda in prossimità del cantiere fra Contursi e Sicignano verso Reggio Calabria e poi code a tratti tra Sant'Elia e Scilla nelle due direzioni. È tutto, noi ritorniamo tra circa mezz'ora. Promo 24. Arriva l'HD Day e il cinema di Sky sarà la fine del mondo. Dal 31 luglio i 12 canali dedicati alle grandi produzioni cinematografiche mondiali saranno tutti in alta definizione e offriranno 60 nuovi film al mese. Inoltre arrivano Sky Cinema Active, la nuova funzione per vedere locandine, trailer e informazioni su tutta la programmazione e le grandi prime visioni come Terminator Salvation, Baria e Avatar. E con il decoder My Sky HD incluso, tutti i film possono essere visti e rivisti in ogni momento. Il cinema più bello è solo su Sky, a soli 29 euro al mese. Sono compresi anche più di 40 canali per tutta la famiglia, scegliendo fra il meglio dell'intrattenimento, delle news, dei documentari e dei contenuti per i più piccoli. Per informazioni 02 70 70 o www.sky.it. Perché aspettare? Sky, liberi di... Banca Fideuram. Generazioni di valore. Vi presenta America, America, America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, ieri abbiamo avuto una giornata travolgente dal punto di vista delle notizie. Sentiamo. President Obama is applauding congressional passage of what he calls the strongest consumer financial protections in history. Il Senato, con una maggioranza di 60 voti a favore, con 3 senatori repubblicani, ha approvato la riforma del sistema finanziario americano. Il progetto di fatto diventa legge. Cosa significa per Barack Obama? Riuscirà il presidente a riprendere in mano la situazione e sfruttare questo ennesimo successo legislativo che fatica a trasformarsi in un successo di consensi? Over a containment cap in the Gulf of Mexico that stopped the flow of oil for the first time in 3 months. Lo spill è cessato per la prima volta in molti mesi da quando la piattaforma Deepwater Horizon è esplosa nel Golfo del Messico al largo della Louisiana. Il 20 aprile scorso non c'è più una goccia di greggio a contaminare le acque del Golfo in uscita dal pozzo distrutto della BP. Riuscirà di nuovo Barack Obama a sfruttare la situazione, a recuperare in immagine un danno che lo ha tormentato per gli ultimi mesi? Goldman Sachs has agreed to pay $550 million to settle fraud charges brought by the SEC. Goldman Sachs e Security Exchange Commission, la nostra Consob, hanno trovato un accordo extragiudiziale. Ricorderete che la Goldman Sachs era finita nel mirino degli inquirenti. Tutto si è risolto, una congiunzione astrale favorevole, inizia davvero un nuovo capitolo per Wall Street, sarà un'uscita onorevole per l'amministrazione Obama e per il presidente. Cominciamo subito col sentire che cosa il presidente ha commentato parlando della riforma finanziaria. If a large financial institution should ever fail, this reform gives us the ability to wind it down without endangering the broader economy. Ecco, Barack Obama ha cercato subito di trasformare in consensi il successo del passaggio in Parlamento della riforma del sistema finanziario americano. A questo punto manca soltanto la firma, sarà una firma solenne nel giardino della Casa Bianca. Ma il presidente ha cercato di puntare soprattutto sui consumatori. In effetti non è riuscito a ottenere tutto quello che voleva in termini di controllo delle attività delle banche americane, ma sui consumatori sì. Beh, sui consumatori è contento. L'agenzia per la protezione dei consumatori, che lui voleva moltissimo, una sua idea, è stata istituita e dunque ha parlato di quello, perché poi colpisce più direttamente la fantasia e l'immaginazione degli americani. Questa sua creatura, ha detto Barack Obama, deve consentire alle persone comuni di non diventare vittime del sistema finanziario, deve consentire alla gente di prendere decisioni finanziarie giuste, non ci sarà più confusione. Si tratta della più forte protezione finanziaria nella storia dei consumatori. Barack Obama ha parlato anche degli altri aspetti importanti di questa legge. Ricordiamoli molto rapidamente: la legge in discussione in Parlamento ormai da molti mesi, di fatto è la più importante riforma del sistema finanziario dal Glass-Steagall Act del 1933, che separò drasticamente le attività di banca commerciale da quelle di banca di affari dopo la crisi del 1929. Beh, oggi le imposizioni, occorre dirlo, saranno meno dure e incisive di quello che fu fatto allora, e ci sono stati tra l'altro alcuni blog come Huffington Post, ad esempio, un po' irriverente, che parla di riforma ma non di trasformazione, come dire si è fatto qualcosa ma non si è fatto abbastanza. Ad esempio, non ci saranno spezzatini di banche troppo grandi per poter fallire, e per questo alcuni, e fra questi l'economista Paul Krugman, ma anche uno dei più importanti ispiratori della riforma, Paul Volcker, dicono che non si è fatto abbastanza. Resta il fatto che dopo la liberalizzazione del settore, prima strisciante negli anni 80, poi completa nel 98 per rispondere alla globalizzazione, ecco che nel 2010 si fa marcia indietro. Ad esempio, le banche commerciali non potranno investire per conto proprio in operazioni di trading o altamente speculative, ad esempio in operazioni hedge o di private equity, per una percentuale superiore al 3% del capitale. E quelle che invece vorranno farlo dovranno lasciare il settore commerciale e trasformarsi solo in banche d'affari, concentrarsi sul trading, oppure dovranno creare delle controllate separate. Vi sarà un controllo più rigido del rischio, vi saranno nuovi poteri di supervisione da parte della Fed, insomma molte cose sono state davvero fatte. La domanda di fondo, quella che facevo prima, è: riuscirà Barack Obama a tradurre questo successo legislativo in un successo politico? Non ne sono sicuro, finora il presidente non ci è riuscito, e vi dico perché. Perché questa proposta di legge ha 2300 pagine, a parte le normative più, diciamo, conosciute, presenta molte incertezze. I timori delle aziende sono che dietro le pieghe di questa legge le banche stringeranno i cordoni della borsa, e dunque si genera incertezza. Ripeto, una riforma molto importante, un passo in avanti per gli Stati Uniti d'America, una dimostrazione di leadership anche nei confronti degli altri paesi, un consenso, se vogliamo, bipartisan, però su questo fronte il presidente americano avrà bisogno di tempo per poter cash in, per poter incassare qualche successo di immagine. We'd all like a certain result that it says there's perfect integrity, but we must. Lo spill, altro passo in avanti per Barack Obama. Doug Suttles è il Chief Operating Officer della British Petroleum, lo avete sentito, leggermente prudente. La cosa ha funzionato. In effetti la cupola che è stata piazzata sul buco ha controllato la fuoriuscita di petrolio. A questo punto ci sono due opzioni: si resterà in questo contesto e dunque si dovrà continuare ad ancorare con maggiore solidità questa cupola ai fondali marini e la cosa finirà lì, oppure si dovrà tornare a una piccola operazione di fuoriuscita che dovrebbe essere però controllata attraverso dei tubi che consentiranno di portare quei 30-60 mila barili di petrolio al giorno che escono, fuoriescono dal buco in delle navi serbatoio. Comunque sia, si è trattato di una svolta. È la prima volta dal 20 di aprile che non c'è più una goccia di greggio nel Golfo della Louisiana. Questo, dal punto di vista dell'immaginario collettivo degli americani, è stato un progresso straordinario. Significa che è possibile contenere lo spill. Bob Nelson, un senatore della Florida, ha detto: alleluia, finalmente ci siamo arrivati. Per Barack Obama è di nuovo una svolta, un secondo successo dal suo punto di vista. La sua amministrazione fu sotto accusa per non essere intervenuta direttamente con immediatezza. Su questo punto Barack Obama potrebbe in effetti capitalizzare. Tra le altre notizie, vi dicevo, si è risolta la crisi Goldman Sachs SEC. La banca americana pagherà una multa di 550 milioni di dollari, la più elevata mai pagata da una banca americana. Anche su questo fronte Barack Obama potrà dimostrare di aver incassato un lauto compenso per lo Stato. JP Morgan Chase, utili per il secondo trimestre, un aumento del 77%, 4,8 miliardi di dollari. Il settore finanziario si stabilizza. Un altro messaggio positivo per il presidente, ma la strada per novembre è lunga, le incertezze di fondo restano, ci vorrà secondo me ben altro dal punto di vista dell'immagine per risollevare Barack Obama dai minimi. Lo abbiamo detto qualche giorno fa, 6 americani su 10 ritengono che non sta facendo bene. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ogni sabato pomeriggio per tutta l'estate, questo volevo dirvelo prima, ancora non era capitato, nel giardino del PS1, la sede del MoMA, il Museum of Modern Art, nel Queens, vengono organizzati una serie di concerti durante i quali si alternano numerosi DJ. Ebbene, domani sabato sul palco suonerà una band newyorkese, Ratatà, un duo di musica elettronica, il chitarrista Mike Stroud, il bassista e produttore Evan Must. I due hanno appena pubblicato il loro sesto album LP4. Ratatà, la canzone Party with Children, party con bambini. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! Banca Fideuram. Generazioni di valore. Vi ha presentato America 24. La nuova Citroën C3 è l'unica 5 porte con la migliore abitabilità della sua categoria in meno di 4 metri. Solo a luglio, su nuova Citroën C3, hai 3 imperdibili vantaggi. 2.000 euro di ecobonus, diesel e GPL allo stesso prezzo, un anno di assicurazione furto incendio compreso nel prezzo. Nuova Citroën C3, il Visio Drive. Provala! Non mi sposi più, ma... Pucci, ho tradito la tua fiducia. Mai. Pucci, tu sei il solo a non saperlo. Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia, con il servizio rapporto classificato, ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un clic. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it, numero verde 800 425 325. Ciao, sono Maria e ho un negozio di abbigliamento. Tra le offerte Vodafone partita IVA, ho scelto Vodafone Parla Facile ADSL. Dal cellulare faccio tutte le chiamate che mi servono. Ho un Nokia 2730, il telefono fisso e l'ADSL fino a 7 mega. E risparmio! Se hai la partita IVA, passa a Vodafone Parla Facile ADSL a soli 55 euro al mese, senza più il canone Telecom. Vieni su Vodafone.it o chiama l'800-127-777. Per me niente è meglio di Vodafone partita IVA. E questo è il nostro impianto di illuminazione. Utilità festeggia 10 anni a servizio delle imprese per la fornitura di elettricità e gas. Chiedi un preventivo gratuito su utilita.com. Insieme troveremo la soluzione ideale per la tua azienda. Questa è classe B a bordo piscina. Qui è classe B al gioco aperitivo. Qui è fuori dal ristorante. Ma tu dov'eri? Scattavo le foto. Quest'estate non potrai rinunciare a una Mercedes-Benz classe B. Scegliela ora e inizia a pagarla senza anticipo tra 4 mesi. TAN 3,39, TAEG 4,23, rata 399 euro. Offerta valida fino al 30 settembre, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services Italia. Info mercedesbenz.it. Classe B. Le tue vacanze durano fino all'autunno.